Intanto, questo incidente aveva aumentato il mio aborrimento per il monastero. Ormai conoscevo appieno l'egoismo delle monache, le quali, per tacito accordo, avevano tentato di farmi morire, mettendo esse due cose in salvo: prima la loro tranquillità a detrimento della mia salute e forse con pericolo della mia vita, poi la spesa di una donna che badato avesse alla vittima del loro regime. La spilorceria del convento eclissa ben anche quella di Arpagone e di Sherlock. Per uscire da quella bolgia soffocante avrei ben immaginato qualche mezzo idoneo, ma qual dolore non avrei recato alla zia. Un altro fatto consimile e non meno tragico avvenne dopo l'uscita di Angela Maria. Era, sotto la mia direzione, addetta alla confezione degli sciroppi e distillati per uso della farmacia, una conversa chiamata Concetta, compaesana della povera pazza, essendo entrambe della Fragola. Bella donna di 36 anni, alta, robusta, un incarnato meraviglioso, cui dava risalto un grosso neo alla guancia sinistra. Bocca gentile, fornita di splendida dentatura, occhi cerulei, capelli castagni, lucidissimi, leggermente increspati all'estremità e sboccanti da sotto il sobbolo nell'una e nell'altra ciocca. Il solo naso pregiudicava quel raro tipo di beltà, essendo soverchiamente aquilino. Nell'esercizio dei suoi doveri Concetta mostravasi esattissima e la sarebbe stata in tutto esemplare se stata non fosse un po' vanarella e civettuola nel parlatorio. Io aveva osservato che ella accordava molta domestichezza a un giovane facchino del locale. Nelle lunghe giornate d'estate, mentre tutte meriggiavano, la sorpresi più volte affacciata a una finestrina che è vicino alla chiesa e guarda la via San Biagio dei Librai. Queste osservazioni mi avevano persuasa che là non era contenta del suo stato e che molto volentieri avrebbe preferito quello del matrimonio. La disgrazia della sua paesana e compagna le aveva fatto un'impressione spiacevolissima e sempre che ne sentiva ragionare stralunava gli occhi in modo da metter paura. Questo suo stato morale durò per alcuni mesi, se non che la follia, che già prendeva radice, si manifestò in lei sotto una forma diversa, quella dell'ipocondria. Si ritirava spesso in luoghi appartati per dar libero sfogo alle lacrime che l'opprimevano. Fuggiva la conversazione, mormorava da sola, non atteggiava mai la bocca al riso, obliava di leggeri gli ordini che io le dava, confondeva le medicine e se entrava in discorso lo faceva solo per indirizzare mille domande sulle strade di Napoli, sulla libertà personale degli abitanti, sulla beatitudine di coloro che ne possono godere ed altre cose simili. A sgravio di coscienza, come infermiera, avvertii la badessa che lo stato di Concetta meritava attenzione e chiesi un'altra conversa per la farmacia, poiché quella imbrogliava i medicamenti, perdeva il tempo a cambiarli dall'uno all'altro scaffale e attaccava il cartellino di un farmaco al barattolo di un altro, conclusi dicendo di non voler restare responsabile di ogni disastro che potesse accadere. Ma rispose l'inetta donna: «Sai, mo, che tu sei l'uccello del cattivo augurio?» Mi tacqui allora, né più parlai sul conto di Concetta, ma di lì a pochi giorni una contadina, sorella della stessa, avvedutasi di ciò che io pure avevo osservato, chiamava la badessa al parlatorio onde pregarla di prendere in considerazione lo stato mentale della germana. Rimase anche questo avvertimento senza effetto. La balorda badessa si restringeva a rimettere l'inferma sotto la protezione della miracolosa Vergine dell'Idria, superiore patrona del convento. Poco dopo, una vecchia che dormiva con Concetta nella stessa stanza le disse avere sul far del giorno veduta la sua compagna seduta sul letto, nell'atto di avvolgersi un fazzoletto alla gola, e soltanto le sue grida aver impedito che la si fosse strangolata di propria mano. «Stasera alle litanie farò dire 40 volte ora proea», rispose la badessa. Un giorno di domenica, prima del levar del sole, molte monache stavano ascoltando la Santa Messa. Si scende al comunichino per una lunga scala che mena in un cortiletto umido, intorno a cui gira uno stretto corridoio a volta altissima, sostenuto da pilastri. Io scendeva per comunicarmi, era appena arrivata alla metà della scala, quando intesi un forte rumore come di grave corpo caduto a terra. Mi coprii il volto con le mani, senza aver veduto niente, il pensiero mi corse all'ipocondriaca Concetta. Scesi precipitosa e trovai l'infelice in terra. Me l'accostai, la credetti morta e chiamai aiuto. Più di 40 monache stavano riunite nel comunichino per la messa. Mi udirono gridare, ma nessuna uscì. Ne scese finalmente una, con l'aiuto della quale sollevai da terra la conversa e l'adagiai sopra un seggiolone, priva di conoscenza. Indi, suonato il campanello della sacrestia, feci venire un prete per assisterla. Aveva la gamba sinistra lussata e tutta grondante di sangue. Era caduta a piombo sopra uno dei pilastri che reggevano la volta, così la polpa della gamba ne fu orribilmente straziata. Appena poté articolare qualche parola, due facchini, con manovelle passate sotto la sedia, la portarono nella sua stanza. Il prete la seguì, ma dovette presto lasciare la camera, poiché la sventurata, con un segno, indicò che non lo voleva vicino a sé. Il luogo dove Concetta si era gettata era presso la chiesa. Le monache, dopo la messa, uscendo dal comunichino, presero a strepitare intorno all'accaduto sì forte che alla gente radunata in chiesa parve fosse avvenuta la rovina del monastero. Il sospetto venne confermato dal portamento del prete, che frettoloso e trambasciato se ne uscì di chiesa per entrare nel convento. Circa 2 ore dopo sopravvennero un ispettore di polizia e un cancelliere con uno stuolo di birri per procedere all'accesso. La badessa vuole impedire l'entrata di quei profani nel chiostro, ma essi insistono a volervi penetrare. Sapete bene, signor mio, che senza ordine espresso del Santo Padre mi è vietato di ricevere nella clausura chi che sia, fosse pur egli lo stesso sovrano. E voi, reverendissima, non dovete ignorare come l'ordine pubblico è superiore agli ordini che potete aver avuti da Roma. Mi fate trasecolare? In qual modo pensate che nel mio monastero sia stato infranto l'ordine pubblico? Ma corre voce che una conversa sia stata precipitata con dolo e premeditazione dall'alto del secondo piano e miseramente infranta, né manca che questo turpe misfatto imputi a Vossignoria. Figuratevi lo stupore della badessa. Con 1.000 inchini li fece immantinenti entrare ed ella stessa li condusse alla presenza di Concetta, la quale, alla scossa ricevuta dalla caduta, aveva per poco recuperata l'integrità della ragione. Subì ella l'interrogatorio con mirabile disinvoltura e depose il vero, attestando di essersi precipitata da sé sola e per irrefrenabile desiderio di morte. Domandata per quale ragione avesse attentato ai suoi giorni, ella, educata ai doveri religiosi più vivamente che non lo sono le donne secolari, trasse un profondo gemito e si provò a rispondere, ma o perché inabile ad articolare suoni, o perché pentita, si tacque. Poi sbadigliò per modo da sgangherarsi le mascelle, stralunò gli occhi, respinse villanamente la mano dell'inquirente e ricadde nella demenza. L'ispettore, steso il verbale, se ne partì, ma tutto il peso di questa catastrofe non gravava sulla coscienza della badessa. Nel mentale turbamento che da più mesi travagliava quella misera, non era dover suo di farla assiduamente sorvegliare. Contiguo alla stanza dell'alienata vi era un camerino destinato a guardaroba. Ivi fu trovata una fune con un nodo scorsoio in mezzo e in un prossimo ripostiglio si rinvenne inoltre un cartoccino di veleno. Era chiaro che l'aveva titubato intorno al genere di morte da scegliere, sospesa fra l'arsenico e il capestro. Di lì a poco venne il cardinale Riario Sforza, esaltato recentemente alla sede arcivescovile di Napoli. Egli apostrofò acremente la badessa, sì per aver menato tanto scalpore male a proposito, sì per aver permesso a poliziotti di violare con la loro presenza il sacro rifugio delle vergini. Sapete voi, le disse in tono severo, qual sia rispetto ai chiostri l'opinione dei sedicenti filosofi e liberali? Credono essi che nei vostri recinti regnino il rimpianto e la disperazione, ossia che tutte le vostre monache siano si pentite del loro stato. Or voi, con la pubblicità data a un fattarello di sì lieve momento, non avete forse dato appiglio alle calunnie del secolo? Se il monastero non è una tomba, come i santi canoni la richiedono, perché ne porterebbe dunque il nome? I vivi non devono sapere giammai le intime peripezie del sepolcro. L'infelice Concetta sopravvisse altri 20 giorni finché la gamba non le si cancrenò. Non mi dipartii dal suo fianco altro che al tocco della campana ogni mattina e sera, né cessai di prodigarle i doverosi conforti di carità. Spesso l'udii mormorare da sé sola, tal'altra volta la vidi conformare il sembiante a mesto sorriso, benché afflitta da doglie acerbe. Da alcuni tronchi accenti compresi che la poveretta si trovava in uno stato critico, che voleva con la morte nascondere. Supina sul letto di morte, con gli occhi inchiodati al soffitto sovente, diceva con se stessa: sì, se la morte non giungerà sollecita, inevitabilmente tradita, già il seno, maledetto, scomunicato. Vattene alla malora, né mi parlar di cielo e di Madonna. Se la Madonna soccorre gli sventurati, perché dunque non viene in soccorso a me e alla creatura che mi sento nelle viscere? Favellò il più delle volte d'un giovine dagli occhi neri, che era stata solita di vagheggiare dal finestrino presso la chiesa, né si lasciò persuadere a ricevere il prete e i sacramenti. Abbandonata alla più cupa disperazione, non cessò di ripetere le mille volte che ella era irreparabilmente dannata. Orride, strane allucinazioni sopravvennero a funestarle gli estremi istanti. Di nottetempo, mentre tutte dormivano, tranne due o tre che vegliavano al suo fianco, gridava: «Questo luogo è infestato da demoni! Eccoli là, li veggo, uno per uno! Ohé, perché tu in codesto angolo fai mille sberleffi? E tu in codesto altro, perché scuoti le pareti, urtando con le corna la soffitta?» Altre volte diceva: «E voi, anime innocenti, non contaminate di impurità, fuggite! Involatevi presto dal mio contatto. Se ne usciste macchiate, oimè, non basterebbero 3 anni di penitenza a purgarvene.» Le monache, perfettamente convinte che la delirante fosse ossessa da spirito maligno, pensarono di farla esorcizzare da un monaco crocifero, né è a dire l'universale spavento all'idea che il monastero fosse invaso da demoni. L'esorcismo fu praticato con imponente solennità, ma non ebbe alcun effetto. Le monache, tutte affollate nel luogo della cerimonia e facendosi continuamente segni di croce, si aspettavano a bocca aperta di vedere sbucare dal corpo dell'invasata la figura di Satanasso, ma la curiosità loro fu delusa. Non era ancor vicino il 9° mese. Il sacerdote non poté entrare nella stanza per recitare qualche prece, se non nel solo momento in cui l'infelice esalava lo spirito. Restituì ella l'anima al creatore intorno al vespro. La beltà, che nell'assenza della ragione si era spenta, riapparve commovente sull'esanime spoglia di quell'infelice. Quale serenità rifluì allora sulle sue fattezze, insino a quel punto sconvolte dalla follia, tramutate dall'occulto cordoglio. Era sul tramonto. Un raggio di sole morente, dardeggiato attraverso le imposte della finestra, venne per un momento a posarsi sul sembiante della morte, a baciarle tremolando la punta delle ciocche. Anche quel messaggero della divina misericordia un momento appresso era scomparso. Ella se n'era ita, libera. Io rimaneva. Sfogliai un mazzo di purpurei garofani e ne versai un pugno sul corpo della defunta. 16. Chiarina. I patimenti morali, le incessanti agitazioni, l'azione coercitiva della clausura, la vita sedentaria, l'atmosfera del monastero malsana durante la stagione d'inverno e soprattutto i raggiri di cui io era divenuta vittima. Tutto ciò aveva scossa la mia salute troppo gagliardamente perché non cercassi un qualche mezzo di salvezza. In questo mentre era morta Giuseppina, la mia prediletta sorella, colei che più di ogni altra persona soleva compiangere le mie sventure. Il dolore di non averla potuta abbracciare, neanche vedere un solo istante prima che ella si separasse da questo mondo, mi fece sentire vieppiù il pentimento di un voto diametralmente opposto all'indole mia. E non di meno, ben vero che mutata con l'andar degli anni si trovava la mia condizione. Avendo ormai raggiunto l'età maggiore, io potevo già reputarmi arbitra sicut in quantum di me stessa. Oltre di che, possedendo più di una pensioncella, avrei potuto cercarmi un altro ritiro, meno forzato del monastico e più conveniente alle mie inclinazioni. Ove pure non avessi preferito ricorrere all'ospitalità del secondo marito di mia madre. Questa, vedendomi in preda alla disperazione, si mostrava dolentissima, né di tratto in tratto dissimulava il rimorso di avermi la prima volta fatta entrare nel monastero. Mi promise adunque la sua cooperazione in ogni tentativo che il sollecitar potesse la mia più o meno larga liberazione e mantenne fedelmente la promessa. Ma anche nell'interno del chiostro lo stato mio era sì modificato. Una malattia di pochi giorni mi aveva strappata la seconda zia, quella che funzionato avea per lungo tempo come badessa. Gaetanella non era più al mio servizio dopo il fatto di Angela Maria, fatto nel quale aveva ella dimostrato nutrire affetto scarsissimo per me e nessuna umanità per le altre. Io l'aveva ceduta a mia zia e in cambio mi era provveduta di una giovinetta entrata poc'anzi nel convento e nativa di un piccolo paese nelle vicinanze di Napoli. Si chiamava Maria Giuseppa, aveva 17 anni ed era di fisionomia insinuante. Benché la sua famiglia avesse fatto molta spesa per chiuderla e che ella non provasse ancora la nostalgia della personale libertà, pure aveva fin dal principio concepita siffatta devozione per me che protestava tutto il giorno d'essere pronta a seguirmi dovunque le combinazioni mi avessero potuta condurre. Nei contorni della mia prigione si trovava una casa alla cui finestra spesso io vedeva una giovine monaca in amichevole conversazione con le parenti. La mirai, la rimirai, ne interrogai l'abito. Non v'era dubbio, apparteneva a un qualche convento di clausura. La non pareva addetta a quella classe di bigotte che chiamansi monache di casa. Per quale mezzo ella aveva recuperato l'impareggiabile beneficio di ricalcare la soglia paterna? La brama di trapelare alcunché intorno a quel portento mi preoccupò vivamente. Seppi, alfine, dopo lunghe indagini, che era ella di clausura di un monastero di Nola e stava da lungo tempo fuori del chiostro, avendo addotto dei motivi e rinnovato il permesso d'assenza ogni 6 mesi, per modo da ottenerne un prolungamento indefinito. Quale raggio consolante di luce nel buio del carcere! Perché, profittando del messaggio che forse la provvidenza mi mandava, perché non avrei battuto anch'io la stessa via? Non era forse vero, non era evidente il pessimo stato di mia salute. Non andava io soggetta ad accessi nervosi, emicranie, spasimi che logoravano sempre più l'ingracilita mia complessione? Pingui, fresche, rubiconde, piene di brio e di beatitudine, erano la maggior parte delle altre mie compagne. La spensieratezza, l'ozio, l'apatia conferivano loro come il pollaio conferisce alle galline. All'incontro io diveniva sempre più pallida e smilza, le gote mie si affossavano, gli occhi si spengevano, i capelli mi cadevano a ciocche. Uno dei medici della comunità mi fece il rispettivo certificato che, unito alla supplica, spedii senza indugio a Roma. Era tanto sicura del buon esito che dal giorno stesso della spedizione cominciai a contare le ore e i minuti del tempo che mi restava ancora da patire. Io dicevo fra me e me, ora il Corriere consegna la mia supplica, ora Pio IX la sta leggendo con animo disposto al favore, ora sarà già fatta la grazia, firmato l'atto, sigillato il foglio, passato alla rispettiva autorità perché lo mandi a Napoli. Fra 2 giorni sarà di ritorno il Corriere, oggi è giovedì, sabato mattina per tempo, arrivederci. Ah, ma queste 2 giornate saranno per me più lunghe di 2 secoli. Frattanto il canonico non sapeva darsi pace di questo mio passo e cercava di infiacchire la poesia delle mie speranze con tutti i colpi che in sua disposizione mettevano lo scetticismo della logica e il cinismo della professione. Non mancò peraltro di lagnarsi con la badessa delle sciocche persecuzioni a me fatte soffrire dalle monache, dicendole in conclusione: «La mia penitente è donna di fermo carattere. Sebbene di poche parole, siate certa che se si prefigge di uscire ne uscirà. Oh, San Benedetto non lo permetterà. Chiunque ha indossato una volta il suo abito non uscirà più di qua dentro, né viva né morta», rispondeva la povera donna. Ma se a me sembrava da 1000 anni di voler lasciare quel luogo detestato, ciò nonostante mi doleva di lasciare una ragazza in cui si erano concentrate le mie premure, ragazza che io amava come figlia ed unica sorella. Discendeva ella da un'onesta e agiata famiglia napoletana e mi era stata distintamente raccomandata un anno prima dei sovraccennati avvenimenti. Chiarina aveva tal nome, era stata da principio affidata ad una zia, monaca da 40 anni nello stesso monastero e in quel tempo rimbambita per eccessiva vecchiezza. Attristata dall'orrendo abuso che la conversa faceva della debolezza di lei, la povera vecchia mi aveva supplicata di prendere la nipote sopra di me e farle da madre. Ogni educanda aveva per maestra una monaca. Chiarina fu dunque data in custodia a me ed io l'accolsi caritatevolmente. Nata di 7 mesi, quella giovinetta era viva per miracolo. Aveva 16 anni, ma ne mostrava appena 10. Perduti entrambi i genitori in tenera età, era rimasta con due soli fratelli. Il minore studiava in un'altra città e il maggiore, per la natura delle pubbliche funzioni che esercitava, era costretto a trovarsi sempre in viaggio. Chiarina aveva il volto di un angioletto, sembianze regolari, guardatura attraente, profondamente patetica. Era impossibile anche alle persone del suo sesso averla veduta una volta alla sfuggita e non sentirsi la voglia di pascer la vista nella contemplazione dei suoi sguardi incantevolmente languidi. Quegli occhi mandavano fuori un tale flusso di carità che avrebbero sull'istante placata la più gran collera, ma se vago aveva il sembiante, era però deforme di corpo e malaticcia. Affetta da un aneurisma che l'aveva dilatata alla regione cardiaca, ella era tormentata da tosse ostinata e da palpitazioni di cuore frequentissime che le rendevano affannosa la respirazione e velata la voce. Né meno bello del volto era l'animo suo, animo ingenuo, cortese, mansueto e dotato di mirabile pazienza. Possedeva quella ragazza la facoltà di ben giudicare quali fossero le cose da fare, quali da evitare, facoltà che io, superiore a lei di molti anni, ammirava, ma non sapeva imitare. Lì nel chiostro, però, oltre la mancanza della salute, aveva la poveretta due grandi malanni, l'essere allieva mia e l'aver per cameriera una conversa che le faceva, non dirò da matrigna, ma da tiranna. Era ben naturale che l'odio dalle giovani monache giurato alla maestra si riflettesse altresì sulla discepola. In quanto alla conversa, ella era un mostro di brutalità, una belva feroce a faccia umana. Essendo la giovinetta piuttosto ricca per eredità, aveva preso a covare il reo progetto di non lasciarsi scappare di mano quella preda, ma di perpetuarne il possedimento, obbligandola con ogni sorta di coazione a pronunziare i voti e volendola accostumare bel bello al suo dispotico dominio. A questo scellerato disegno ostava però la malattia della padroncina. Faceva dunque mestieri occultarla a tutti, per quanto era possibile, acciò che le monache non avessero esclusa nel capitolo la sofferente. Ma come potevansi nascondere la tosse e l'affanno a forza di villanie e di sgridate? Se ella la udiva tossire per il corridoio, la sgridava tosto con le maniere le più plebee o anche per reprimere il suono della tosse le chiudeva con la sua mano la bocca. Se l'avesse veduta per le scale in colloquio con qualche monaca, subito le imponeva di risalire facendo 100 scalini senza riposarsi. La poverina diveniva livida e ansava in modo che sembrava lì lì per dare l'ultimo fiato. Io non mancava talora di sgridare la conversa per siffatte brutalità, ma Chiarina mi diceva che dopo le mie sgridate i maltrattamenti che da sola sola le faceva soffrire la conversa erano anche maggiori. Per tale riguardo mi convenne più volte ora raffrenare lo sdegno, ora di non dar corso a proteste, le quali non avrebbero fatto che vieppiù inferocire l'animo naturalmente spietato della conversa. Saltò al fine in testa questa megera l'idea di raddrizzare il corpo alla mia discepola per meglio nasconderne la deformità, e a raggiungere tale scopo le pose un busto con le stecche di ferro. La povera Chiarina, non si tosto entrata la mattina nella mia camera, si buttava mezza incadaverita sulla seggiola a bracciuoli e con un fil di voce morente mi diceva: «Signora Enrichetta, per pietà, allargatemi il busto, io mi sento soffocare». La menava allora in luogo appartato, il più sovente nel noviziato, ove di soppiatto le allentava la stringa. La sera però io doveva tornare a stringerla per non farne accorto il cerbero. Io diceva sovente alla pupilla: «Ma fino a quando, cara mia, sarai tu la schiava di una servaccia? Se vuoi vederla finita, io ne conosco il modo, lascia fare a me». «No, no, per carità, non lo fate», rispondeva quella, giungendo le mani supplichevolmente e tremando alla sola idea della collera di quel mostro. Questa creatura interessante, tanto piena di candore, di religione, di amorevolezza, quanto maltrattata dalla natura e tartassata dal destino, nutriva un affetto singolare per gli animali, specialmente per le rondini. Seduta nel vano della finestra, col capo appoggiato alle braccia incrociate, passava parte della mattinata a seguitare le aeree scorrerie di quei volatili e a contemplare la gioia delle loro piccole famiglie annidate sotto il tetto o ad ascoltare i loro garruli preludi nel punto di dare l'imbeccata ai neonati. I costumi e gli istinti delle rondinelle la rapivano in estasi, né mai si saziava di udirne il racconto. Ogni qualvolta io le narrava qualche novello aneddoto intorno alle loro meravigliose trasmigrazioni, ella, interrompendo il discorso, soleva dirmi con mestizia: «Esse almeno se ne vanno d'autunno per ritornare la primavera nello stesso nido, e noi?» A dispetto però di tali requisiti, le giovani monache non la trattavano meno duramente della conversa. Allorquando l'udivano recitare l'ufficio nel coro, cosa che io le voleva sempre inibire ma per la quale ella era appassionatissima, si facevano beffe del suo affannoso respiro, oppure, dileggiando il suo zelo, esclamavano ad alta voce: «Che seccatura!» Il chirurgo della comunità, signor Giampietro, aveva assistito alla madre di Chiarina quando si era sgravata di lei. Costui, che per tale ragione amava paternamente la ragazza, non cessava di raccomandarla alle mie cure, ripetendomi le mille volte di non imporle fatica e di evitarle qualunque molestia. Ma perché tali raccomandazioni non gradivano troppo alla conversa, ebbe Chiarina l'avvertimento di schivare la presenza del chirurgo. Io era già da qualche tempo rientrata nelle funzioni di infermiera. Un giorno, mentre Giampietro si tratteneva nella porteria, io e Chiarina vi giungemmo per caso. La prese egli per la mano e, fattasela sedere sulle ginocchia, tese l'orecchio alla mia relazione sulla salute dell'educanda, i cui palpiti crescevano di intermittenza e più forte si manifestava il battito violento del cuore. La fece alzare in piedi e nel posarle una mano al dorso e l'altra al petto per esaminare il ritmo dei battiti che questo dava, le sue dita toccarono le stecche di ferro. «Che cos'è questo che porti nel busto?» le domandò. E la ragazza, facendosi rossa, rispose: «Oh, niente, niente!» Io feci segno con gli occhi al chirurgo di procedere all'indagine, per lo che, spezzando egli la stringa del corsaletto di lana nera, mise il busto alla luce. «Misericordia!» gridò con furia. «Chi è stata quell'infame che ha messo a questa disgraziata una corazza di ferro?» «È stata la mia conversa», rispose Chiarina. «Chiamatemi subito quella scellerata», riprese il chirurgo. La fanciulla, divenuta pallida e tremante, mi pregò di calmarlo, ed egli, vedutala così costernata, si fermò un poco. Poi, voltosi alla portinaia e alle altre monache presenti: «Gli omicidi», disse, «non si commettono soltanto col pugnale o col veleno. Mettere un tale busto a questa malata è lo stesso che volerla uccidere, comprimendo il suo cuore, voi la mandate alla tomba». Parole gettate al vento. Chiarina continuò a portare le stecche di ferro e non valsero né le ammonizioni del chirurgo né le mie preghiere. Suo fratello si trovava negli Abruzzi. Gli scrissi una lettera in cui a chiare note gli dissi come il ritenere più lungamente la sorella nel monastero equivaleva a volerla abbandonare a morte sicura. Venne egli subito in Napoli e disse a Chiarina che si apparecchiasse a seguirlo. Ella si mostrò dolente di lasciarmi, sebbene convinta d'altronde che io stessa non vi sarei rimasta più a lungo perché la mia domanda non poteva incontrare in Roma alcun ostacolo. Uscì dunque del chiostro condotta dal fratello e le giovani monache, in segno di ringraziamento, accesero delle candele alla Vergine. Se non che il rio destino non aveva cessato di perseguitare quella miserella. Era d'inverno. Il freddo degli Abruzzi, dove il fratello dovette ritornarsene, recò grave pregiudizio alla salute di Chiarina, e come d'altra parte il tempo fa dimenticare le passate sofferenze, credette questa di trovarsi più riparata nel chiostro che non viaggiando col fratello. Di lì a qualche tempo faceva ritorno in Napoli e domandava di essere ripristinata nel suo posto di educanda. Quale idea! Le feci osservare l'incauto proponimento, non degno della sua provata prudenza, le rammentai i passati patimenti, le diedi il consiglio di scegliersi piuttosto un ritiro, prendersi una cameriera e viver tranquilla e indipendente. Ma mi rispose: «Voglio starmene, amica diletta, presso di voi, non voglio rientrare che per voi sola». «Ma io sono in procinto di lasciare San Gregorio». «Ma sono già passati dei mesi da che siete pronta a partire. Chissà se ve lo permetteranno». Il giorno che per farla rientrare fu convocato il capitolo, volli mettere in salvo la mia coscienza. Nell'atto di dare il mio voto alzai la mano e feci vedere a tutte quante che nell'urna bianca io gettavo la pallina nera. La missione riuscì coi soli voti delle monache vecchie. Le giovani lo diedero contrario. Entrò adunque. Ma poco dopo si pentì di non avere seguito il mio consiglio. La sua tosse, esacerbata durante la notte, disturbava i sonni della conversa. Per evitare le rampogne e le imprecazioni che per tale motivo ne riscuoteva, la povera malata cacciava il capo sotto le coltri e vi rimaneva immota e quasi sepolta. Una mattina la conversa andò a svegliarla. Pareva immersa nel sonno. La chiamò a nome, la tornò a chiamare, la scosse, non diè risposta, non si muoveva. Rimosse allora la coperta che le nascondeva il volto. Era morta. 16 volte sono ritornate da quel tempo le rondinelle, ma lo spirito angelico di Chiarina non farà più ritorno in questa valle di lacrime.